Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, è la puntata numero 104 della trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, nella sua versione estiva del giovedì mattina per la durata di 15 minuti, con piglio giornalistico informativo. In questa puntata, attraverso le voci della sottoscritta Camilla Lattanzi e di Lorenzo Guadagnucci, racconteremo di un'originale e direi appiccicosa campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della liberazione animale. Vi delizieremo con una fresca ricettina estiva e ci sarà spazio per numerose notizie brevi. Sarà probabilmente capitato di vedere nei luoghi dove solitamente vengono attaccati adesivi, quindi pali della luce, pali di sostegno di cartelli stradali oppure parabrezza di motorini e vetri di automobili e così via, un adesivo rosso, bianco e nero che reca questa scritta: contro ogni allevamento, contro ogni schiavitù. Questo adesivo è parte di una campagna lanciata da qualche mese che sta avendo una grande diffusione in tutta Italia. È una campagna che mette in discussione le istituzioni principe dell'oppressione animale in epoca contemporanea, cioè gli allevamenti e i mattatoi. Il disegno centrale dell'adesivo raffigura un maiale e una gallina che rompono una rete, quindi si liberano da una prigione. Abbiamo chiesto a Caterina, una delle persone che hanno ideato la campagna e ispirato anche il disegno, di spiegarci il perché di questa scelta iconografica. Si voleva un'immagine positiva che davvero rappresentasse quella che è il desiderio di libertà che sicuramente tutti gli animali hanno e non riescono ad esprimere se non in piccolissima misura. Si voleva che ci fosse un'immagine che rappresentasse un po' tutti i gruppi all'interno di questo movimento, anche le singole persone che hanno voglia appunto di esprimere questo loro sentire, questa loro idea. Ed è bellissimo, dà molta carica vedere questa immagine, anche oggi il fatto che tantissime persone qui durante il corteo indossassero la maglietta con stampato l'adesivo, dà molta forza perché fa sentire in tanti. E a me è capitato, a me che ne attacco tantissimi in varie città, vederne, scoprire che non li ho attaccati io, ma che qualcuno è passato, è veramente molto bello, fa sentire in tanti, fa sentire uniti, dà molto coraggio. Come è andata la campagna? Come sta andando? Quanti adesivi sono stati stampati all'incirca? Veramente tantissimi, credo 150.000 ne siano stati stampati e distribuiti. Qui veramente c'è un grande lavoro da parte di tante persone che si adoperano affinché questo possa essere realizzato, e non è semplice perché significa appunto organizzare le spedizioni, però vedere poi, sentire la presenza anche attraverso Facebook, la presenza di tutte queste persone che perché poi la cosa bella è appunto che fotografano l'attacco, e quindi la fotografia poi è come se riuscisse a moltiplicare questo adesivo attaccato, quindi sono in realtà molti di più di quei 150.000 che sono fisicamente affissi lungo le vie. Tra l'altro qualcuno è riuscito ad attaccarne persino su furgoni della morte con animali destinati al macello, per cui abbiamo i loro occhi, le loro espressioni terrorizzate vicino all'adesivo. Metteremo sul nostro blog poi tutte le indicazioni per eventualmente chiedere degli adesivi, in modo che ciascun gruppo, ciascuna persona possa eventualmente partecipare a questa campagna. Antonio Napolitano, assessore provinciale con delega alla caccia della provincia di Prato, non ha pietà e ribadisce lo sterminio di 100 volpi da effettuarsi durante l'estate in deroga al periodo venatorio, uso malauguratamente diffusissimo anche in Toscana. La provincia di Siena, mesi fa, fu più accorta e civile e ritirò la delibera che sanciva la riduzione numerica delle volpi. Margherita Hack, la scienziata recentemente scomparsa, era stata prima firmataria del nostro appello contro questa strage. L'ultima volta che l'abbiamo sentita le abbiamo dato la bella notizia della sospensione della determina. Poi non abbiamo avuto il coraggio di comunicarle che l'assessore invece intendeva andare ugualmente avanti. Adesso pensiamo che la provincia di Prato ferirebbe la sua memoria se non tenesse conto delle ultime volontà della grande scienziata animalista Margherita Hack, per non dire dei 60 firmatari che l'hanno seguita a ruota, tutti nomi famosi del mondo della cultura e della scienza e dello spettacolo. Red Canzian, Licia Colò, Susanna Tamaro, l'onorevole Zanoni, eccetera. La petizione online è addirittura arrivata a 28.500 firme. Se si pensa che Prato ha solo 186.000 abitanti, si evince come la scelta dell'assessorato sia lontana dalla diffusa sensibilità che anima i cittadini italiani, continuamente umiliati dalle province che subiscono in modo così passivo la saldatura tra agricoltori e cacciatori. Eppure le proposte alternative ci sono. Abbiamo reso pubblica una bozza di progetto. Abbiamo tecnici pronti a spendersi in collaborazione con la provincia. Esistono buone pratiche cruelty free da attuare. Attendevamo una chiamata dell'assessore per aprire un tavolo tecnico, come da lui promesso durante un'intervista andata in onda, ma la chiamata non è mai arrivata. Per tutte queste ragioni saremo al presidio che si terrà a Prato sabato 13 luglio alle ore 12 davanti al Palazzo della Provincia, in via Ricasoli 25. E chiediamo a tutti i cittadini e le cittadine sensibili e civili, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Restiamo Animali, a coloro che ritengono questa strage ingiusta oltre che inutile, di partecipare al presidio e di chiedere a gran voce all'assessore Napolitano di prendere in mano la situazione, attuando politiche moderne, scientificamente fondate, lungimiranti, umane, uscendo dalla disastrosa ripetizione senza fine, anno dopo anno, delle stragi di animali inermi, definiti nocivi a dispetto di ogni considerazione scientifica ed etica. L'appuntamento quindi è per sabato 13 luglio a Prato alle ore 12 di fronte al Palazzo della Provincia in via Ricasoli 25. La notizia che arriva dal Parco Nazionale d'Abruzzo è orribile e triste. L'orso Stefano, uno dei pochi orsi marsicani, circa una sessantina, che riescono a vivere su quelle montagne nonostante insidie e minacce di ogni tipo, è stato ucciso nei giorni scorsi da un gruppo di bracconieri. Il corpo era stato avvistato sul Monte Marrone da un escursionista ed è servita l'autopsia per stabilire la causa del decesso. Stefano è stato raggiunto da almeno 3 colpi di fucile, sparati probabilmente da armi diverse. Una vera esecuzione, assurda e vile, della quale ci sarebbe da chiedere conto non solo alle guardie del parco, che fanno quello che possono, ma anche alle associazioni venatorie, che dovrebbero impegnarsi seriamente per individuare gli autori di questo crimine. L'ente parco ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia e non ha esitato a definire la fine dell'orso Stefano un brutale assassinio. Un assassinio, aggiungiamo noi, che ci ricorda una volta di più che la guerra al vivente, umano e non umano, è un aspetto non secondario della società contemporanea. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Vi spiego una ricetta tipicamente estiva, fresca e saporita. Si tratta di involtini di melanzane ripieni di una crema al tofu e scalogno. È un piatto che si può gustare subito oppure preparare in anticipo e conservare in frigo perché sono buonissimi anche i giorni successivi. Gli ingredienti sono 2 melanzane tonde, 2 pomodori perini, un mazzetto di erba cipollina, 2 panetti di tofu al naturale, circa 400 grammi, un rametto di rosmarino, una ventina di olive verdi snocciolate, uno scalogno, 2 cucchiai di shoyu o salsa di soia, 2 cucchiai di succo di limone. Iniziate tagliando le melanzane a fette regolari e grigliatele in padella, senza olio né alcun tipo di grasso. Infatti, se la padella ha un buon fondo, le cuocerà senza che attacchino. Una volta preparate le melanzane, mettetele a riposare e intanto preparate la crema, semplicemente riunendo nel bicchiere del mini pimer il tofu a tocchetti, il rosmarino tritato, le olive e lo scalogno a pezzettini, il succo di limone e la salsa di soia. Frullate bene finché non diventerà una bella crema omogenea. Tagliate ora i pomodori a cubetti piccolini e componete gli involtini. Quindi prendete una fetta di melanzana e distribuiteci sopra 1 o 2 cucchiaiate di crema, qualche cubetto di pomodoro e cercate di chiudere, arrotolando la melanzana su se stessa, il più stretto che potete. Fermate con uno stelo di erba cipollina legato a mo' di pacchettino. Ecco, fate solo attenzione perché l'erba cipollina è un po' delicata e si può spezzare. Continuate così anche per tutte le altre fette di melanzane fino ad esaurimento della crema e lasciate riposare in frigo prima di servire. Buon appetito e alla prossima! Ciao! Due appuntamenti per il fine settimana. Da domani a domenica, a Vignola, in provincia di Modena, il Vegan Circus Fest, festival antispecista libertario. Una manifestazione nella quale le lotte animaliste e le lotte sociali sono viste come un tutt'uno, in un unico percorso di liberazione umana e animale. Si parlerà così di autogestione del territorio e di cooperazione, di movimenti contadini, del genuino clandestino, di gruppi d'acquisto solidale e della scelta vegan, di lotte animaliste e di contrasto al sessismo, alla discriminazione e al razzismo, e poi della lotta contro il TAV in Val di Susa e dell'esito dei processi seguiti al G8 di Genova. Il sottoscritto Lorenzo Guadagnucci terrà un intervento sul tema dai diritti umani ai diritti del vivente, e fra gli oratori sono previsti Anna Maria Manzoni, la psicologa ben nota agli ascoltatori di Restiamo Animali, il filosofo Leonardo Caffo e Martin Balluch, uno degli attivisti animalisti e antispecisti più conosciuti d'Europa, e poi convegni, laboratori, spettacoli. È la prima edizione di questo festival, al quale auguriamo lunga vita. Per chi preferisce non muoversi dalla Toscana, sempre domani, venerdì 12 luglio, dalle 16.30 alle 19, nella sala degli affreschi del Consiglio regionale della Toscana in via Cavour 4, si darà un convegno dal titolo «Tutela della biodiversità e della fauna selvatica». Una grande opera per l'Italia. Coordina questa importante iniziativa Mauro Romanelli, consigliere regionale di Sinistra Ecologia e Libertà. Intervengono fra gli altri Massimo Vitturi, responsabile nazionale caccia e fauna selvatica della LAV, Antonio Morabito, che è responsabile nazionale fauna benessere animale di Legambiente, Maria Romoli, vicepresidente LIDA Firenze, Lega Italiana dei Diritti dell'Animale, Alberto Lenzi, responsabile per il PD della Toscana di benessere e tutela animale. E adesso un annuncio. È stato smarrito un gatto. Per favore, diffondiamo attraverso i social network e le nostre reti amicali. In zona Badia Settimo, a Firenze, è stato smarrito un gatto persiano beige. Il gatto ha gravi patologie ed è quasi muto, quindi non risponde se qualcuno lo chiama. Se per caso lo avvistate, per favore chiamate il 346-353-1165. Ripeto, 346-353-1165. Oppure potete portarlo da un veterinario, perché il gatto è microchippato, quindi il veterinario potrà risalire alla sua proprietaria, che lo sta cercando disperatamente. Metteremo questo annuncio nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Vi lasciamo con un pensiero di Erasmo da Rotterdam. E a forza di sterminare animali, sarà capito che anche sopprimere l'uomo non richiedeva un grande sforzo. Tutti i materiali andati in onda saranno consultabili nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com, dove troverete anche i podcast di questa e di tutte le precedenti puntate. Per info, suggerimenti e critiche possibilmente costruttive, restiamoanimali@controradio.it. L'appuntamento è per giovedì prossimo, 18 luglio, sempre alle 9.30 del mattino, per 15 minuti. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti: restiamoanimali@controradio.it.